Allora siamo di nuovo pronto, eccoci, siamo di nuovo al telefono con appunto questa iniziativa sotto, diciamo, la sede centrale dell'INPS a Via Maradana a San Giovanni. Allora, abbiamo fatto l'intervento poc'anzi per questa iniziativa che, insomma, chiede conto all'INPS di tutta una serie di cose, non solo quelle che dovrebbe veramente usare per la previdenza sociale, ma anche di quelle che, insomma, pretendiamo, in quanto pensiamo siano diritti acquisiti, anche se loro non lo pensano. Io so che tu sei lì con un lavoratore, una lavoratrice. Sì, in realtà noi appunto siamo saliti e abbiamo incontrato, insomma, alcuni lavoratori che erano venuti qui, diciamo, come utenti dell'INPS a chiedere informazioni. In particolare c'è un precario della scuola a quale chiedo anche molto semplicemente come mai di 22 dicembre un precario della scuola si trova a venire all'INPS, e vi passo, insomma, il telefono. Sì, buonasera a tutti. No, mi trovavo qui semplicemente per una questione molto tecnica, cioè la richiesta della mia indennità di disoccupazione. Mi sono ritrovato in questo, insomma, mi sono trovato innanzi a questo presidio di cui effettivamente per mia ignoranza non ero informato, però sono rimasto perché sono molto interessato a sapere cosa succederà. Pronto? Sì, perché tu sei talmente fortunato che hai un contratto a tempo indeterminato con questo bellissimo Ministero della Pubblica Istruzione, immagino. Sì, e mi faccio anche il bagno nelle monete d'oro. Esatto, infatti verremo tutti da te. Se ti va di raccontarci un po', appunto, la tua indennità di disoccupazione, quale fantastico regalo di Natale, insomma, quale gruzzoletto riuscirai a mettere per campare di rendita. E, insomma, adesso scherzi a parte, insomma, diciamo, forse sì, la tua categoria è un po' emblematica anche, non lo so, penso che gli insegnanti sono il mestiere meno pagato nel mondo. Penso sì, che comunque c'è un attacco alla scuola pubblica che sicuramente non aiuta gli studenti, ma tantomeno i giovani insegnanti, coloro che invece, esatto, non vorrebbero andarsene e vorrebbero rimandare la ricchezza culturale, il patrimonio culturale del nostro paese, che, insomma, va dimenticando. Ma diciamo che da un punto di vista tecnico, ora, al di là del discorso ideologico sulla cultura, che è vero, è un qualcosa da esportare, quindi produce economia, però dal punto di vista tecnico c'è anche una notevole, secondo me straordinaria, indifferenza verso tutti i docenti che hanno perso il posto di lavoro e che non hanno da dare da mangiare ai propri figli. Ora, io per fortuna non ho figli in questo senso, però comunque il discorso non cambia più di tanto, perché evidentemente, non so, c'è una mentalità per la quale la categoria dei professori non viene intesa come una categoria produttiva da un punto di vista economico, quindi di conseguenza è un problema di cui si parla sempre molto poco. In realtà ci sono delle situazioni molto difficili e anche alcune paradossali, curiose. Io posso portarvi, non so, come esempio la mia situazione personale, poiché ho lavorato per 7 anni al servizio dell'istruzione pubblica, dei licei artistici e degli istituti d'arte, che sono vittime di un'opera di smantellamento totale, e dopo tutti questi anni di servizio mi ritrovo a sentirmi dire basta, non c'è più posto, non ci servi più. Cosa che va tra l'altro in contraddizione a una normativa europea. Adesso io purtroppo nell'impreparazione, qui non sapendo nulla di questo presidio, non mi sono preparato, però ecco, la normativa europea sancisce che al terzo anno di lavoro a tempo determinato, ma con contratto annuale, scatta automaticamente l'assunzione a tempo indeterminato, e questa normativa, chissà perché, in Italia non se ne parla. Se ne è parlato soltanto a proposito a parte che Tremonti ha detto guarda, questa cosa comunque noi in Italia non la vogliamo applicare, non si sa perché, e poi a proposito di un mega ricorso di cui l'informazione non ha passato parola, ma che è il mega ricorso che ha indotto la Gelmini ad assumere improvvisamente un sacco di docenti. Allora tutti hanno pensato che la Gelmini fosse una benefattrice, in realtà non è così, perché il numero dei posti, delle cattedre, quindi delle unità, si è ridotto, quello è calato, non è che è aumentato, è calato. È vero che la Gelmini non ha licenziato nessuno, ma nella misura in cui non ha riassunto quelli che erano precedentemente assunti, quindi in realtà c'è stato un calo comunque. Tutti i docenti che sono stati assunti erano i docenti primi in graduatoria che già lavoravano, quindi in realtà la loro situazione è cambiata leggermente in meglio, hanno avuto una piccola garanzia, rispetto a quella che già avevano, ma tutti gli altri che lavoravano adesso non lavorano più. E quindi, insomma, infatti questo è. Ma tu oggi non eri consapevole di questa chiusura a sorpresa dell'INPS? No, cioè, il giovedì qui questa sede dell'INPS c'è l'orario pomeridiano, io l'ho saputo per caso, siccome tutto a Roma, perché vivo in questa città da poco tempo, ed ero venuto appunto con l'intento di richiedere questa indennità, che tra l'altro non sarebbe l'indennità ordinaria, però della quale ho già usufruito per 5 mesi. E me ne rimangono 3 da richiedere, perché ho avuto un'interruzione di 3 settimane per un contrattino in un'altra scuola. Quindi, insomma, e vorrei anche dire, ora al di là della mia situazione, i ragazzi destabilizzati si sono trovati me come docente, ma dopo averne avuto un'altra che a sua volta ne sostituiva un'altra ancora. E quindi a dicembre i ragazzi non sapevano ancora cosa fosse la progettazione d'architettura, e ho dovuto iniziare a mettere le basi su un argomento che dovrebbero già abbondantemente conoscere, per il semplice fatto che purtroppo questa situazione per loro va avanti da parecchi anni, cioè, loro erano al 4º anno, e da 4 anni che si vedono questo continuo smantellamento di programmazioni didattiche a causa di professori che si susseguono alla velocità della luce. No, infatti commentavamo l'altro giorno, io ho un figlio alla scuola media, ho scoperto da poco che la preside non può chiamare la supplenza anche per una materia principale fino al 16° giorno di assenza del docente, che insomma 16 giorni di assenza del docente non sono proprio pochi, ecco, e quindi fino al 16° giorno non si può chiamare una supplenza. Sì, ecco, sì, tanto per... ci sono anche molti docenti che riescono, perché ovviamente non è una categoria santa, ci sono anche docenti che si fanno i certificati ospedalieri falsi per più di 15 giorni, che sono la fortuna dei docenti che stanno dopo in graduatoria, e questa è una cosa paradossale, veramente vergognosa, che si sia arrivati a sperare nello smantellamento della scuola per lavorare, e questi docenti non sono stati assolutamente toccati dal ministro Brunetta, che voleva combattere fannulloni, e ha combattuto tutto purché la gente... Beh, insomma, diciamo che quando poi si viene ridotti alla miseria scattano meccanismi che sicuramente non ci piacciono, forse bisognerebbe prima che no farsi la guerra tra di noi, riuscire a capire perché poi si arriva a determinate condizioni. Senti... la famosissima guerra dei poveri, esatto. Che tra l'altro devo anche ammonire la categoria degli insegnanti, perché voglio fare anche un briciolo di autocritica. La categoria degli insegnanti è una categoria che si fa la guerra, non è una categoria coesa. Questo. No, infatti. Va bene, senti, io ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza coraggiosa, perché ecco, ti sei trovato lì e hai pure scelto, sì, insomma, di raccontarci la tua esperienza. Allora ti ringrazio e in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Ciao. Pronto? Eccoci qua, allora, insomma, eccoci. Direi abbiamo toccato con mano una testimonianza diretta, insomma, non preparata, perché lui stesso ci ha detto che è uno di quelli rimasti chiusi fuori dal cancello, quindi... Esatto, però insomma è da anche il questa senso è la normalità, di... diciamo. Esatto, della normalità di questi posti. Io volevo semplicemente darvi un aggiornamento rispetto alla situazione che c'è qui. Ci sono diverse persone, insomma, che si stanno affacciando, insomma, dai vari uffici che ci sono qui al 5º piano. Devo dire, una sede veramente elegante, questa dell'INPS, questa, diciamo, la direzione generale. No, a parte gli scherzi, è uscita una dirigente, insomma, penso la dirigente della sede, che chiaramente ha dichiarato che lei, come dire, non ha chiaramente il potere per poter intervenire, intercedere, diciamo così, per il tramite di San Precario con il ministro, e non cogliendo chiaramente che si tratta di un'iniziativa simbolica, quella nostra, e questo però ha permesso, insomma, anche di ragionare con lei, no, sulla situazione che si vivono tutte le persone che vengono qui questi giorni no, a chiedere chi la disoccupazione, chi la regolarizzazione dei contributi, chi l'indennità di invalidità, e insomma di mettere insieme anche storie diverse e farcele, come dire, restituire, no, da chi ci lavora tutti i giorni. L'idea che appunto di restare a oltranza, di restare qui in occupazione finché non ci sarà un minimo di risposta anche, come dire, politica, rimane, e per cui io invito appunto i compagni e le compagne, insomma, a raggiungere la sede IMSS. Noi siamo chiaramente al sesto piano, però insomma, di venire sotto, sotto, insomma, anche a creare un ponte tra chi sta dentro e chi poi invece vive la città in questi giorni prenatalizi per lo shopping e quant'altro. Va bene, dai, allora, insomma, come prima, qualsiasi cosa, ci risentiamo, noi siamo qui e quindi, ecco, teniamo aperto questo canale, insomma, per altre esperienze, insomma, evoluzioni della, del pomeriggio. Va bene, ti ringrazio molto. Grazie ancora, a più tardi. Un allora. Abbraccio. Ciao.